America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Beh, siamo nel periodo post natalizio e post debutto dei film natalizi, perché a questo punto chi ha dato e chi ha avuto, cioè era l'ultimo momento per poter uscire con un film che potesse candidarsi agli Oscar o ai Golden Globe, che tra l'altro abbiamo avuto proprio le scelte dei Golden Globe, tra i migliori film The Big Short, The Martian, Joy, Spy e Trainwreck. Ecco, sono delle scelte un po' particolari, ma abbiamo avuto anche grandissimi film che sono usciti. Ve ne cito un paio. L'avete riconosciuto, devo dire, la musica è sempre quella, l'emozione è sempre la stessa, e la terza trilogia di Star Wars, The Force Awakens, la forza si risveglia, è l'episodio settimo. Questo film appartiene alla mitologia della cinematografia. Rapidamente, un altro film importante. Got room for one more? Hateful Eight di Quentin Tarantino. Questa è una storia così, è un western, perché è la storia di un gruppo, sono personaggi molto diversi gli uni dagli altri, i quali a un certo punto si mettono in fuga e succede di tutto, ne succedono di tutti i colori. Però c'è un aspetto di cui vorrei parlarvi più approfonditamente parlando di Tarantino. Sentiamo l'altro film che secondo me è molto bello e dovreste vedere, e anche molto attuale. You've been selected for a mission which you are not to discuss with anyone outside of this room. Bridge of Spies di Spielberg. Tom Hanks è bravissimo, è un film sulla guerra fredda, per questo vi dicevo attuale, perché ci fa vedere qual è il percorso brutto in cui ci si può instradare se non si gestiscono certe cose nel modo migliore. Ma è un film denso di suspense, è un film che di nuovo, come dire, rappresenta i valori americani, perché Tom Hanks è un avvocato che è molto fedele alla sua etica professionale. Non vi sto a raccontare il film per non rovinarvelo, ma alla fine sono i suoi valori che prevalgono su quelli degli interessi dei politici e delle spie. Comunque, ho con me ai microfoni di America 24 Antonio Monda, con cui abbiamo chiacchierato la settimana scorsa parlando dei film di Natale, parlando della vigilia di Natale e di It's a Wonderful Life, che spero abbiate visto. Antonio Monda, professore di storia del cinema a NYU e direttore del Festival di Roma. Buongiorno Antonio. Buongiorno Mario, bentrovato. Allora Antonio, scusami, risentiamo un momento la musica, perché quello ci dà l'ispirazione. Antonio, io già mi sento meglio, no? Come dire, una musica trionfale, che dici? Ma guarda, John Williams è il musicista, George Lucas è l'ideatore e il regista del primo e del quarto episodio. È una saga geniale, la più grande saga della storia del cinema. A cominciare proprio dalla prima frase è geniale: in una galassia tanti tanti anni fa. C'è un film nel futuro ambientato in realtà nel passato. Sì, sì. È un film epico, uno scontro di valori, uno scontro di civiltà, uno scontro di galassie, di pianeti. Capisco perché abbia conquistato ormai tre generazioni. Cerchiamo di inquadrarlo anche nel contesto attuale, perché è un film anche in cui di nuovo c'è uno scontro tra il bene e il male, e l'America, lo spirito americano vince, no? Ah sì, assolutamente, ci stanno delle forze oscure e cattive che cercano di dominare su pianeti o galassie invece dove c'è una vita democratica e sana. Ma se uno sa indirizzare bene la forza, questa è la più famosa, no, frase, che la forza sia con te, si riesce a vincere anche sul male. Passiamo a The Hateful Eight di Quentin Tarantino. Parliamo un momentino del film prima, di questo western, questa riscoperta del western, perché c'è un altro film appena uscito, The Revenant, no? Anche quello in fondo è un western con Leo DiCaprio. Ma parliamo di Tarantino, si confronta con qualcosa di nuovo per lui? Beh, relativamente nuovo, perché già il film precedente, cioè Django, sì, che era, certo, un remake, sì, di un film italiano, come sappiamo, era un western, anche se affrontava a modo suo, perché poi Tarantino stravolge qualunque tema tocca la questione abominevole dello schiavismo, del mettere delle persone in schiavitù. In questo caso invece è un western molto più classico, estremamente violento come sa fare solo Tarantino, ma anche estremamente lieve e ironico per alcuni versi. La mano è sempre la stessa, lui è un grande regista, è un grande autore. Citavi prima di alcune controversie, sì, alcune polemiche. Esatto, è questo che ti volevo chiedere, perché appunto, come tu dici, un film di grande violenza, e dopodiché Quentin Tarantino è in prima fila nelle marce di protesta contro la violenza dei poliziotti. Cos'è successo? Che i poliziotti si sono irritati. Ma come, proprio tu? Esatto, proprio tu che sei. E quindi hanno deciso di boicottare, hanno chiesto di boicottare il suo film. Ricorderai che una ventina di anni fa lui, se non sbaglio, fu al centro anche di un'altra polemica simile per un film che scrisse per Tony Scott, che si chiamava Una vita al massimo in italiano, True Violence, e subito dopo parlò della violenza eccessiva, eccetera, eccetera. Ecco, io ammiro molto il Tarantino regista, lo trovo anche un uomo divertente e spiritoso, non capisco come non faccia rendersi conto che c'è una contraddizione in quello che dice. Bene Antonio, passiamo a Bridge of Spies, perché io l'ho trovato un film molto bello. Il film è bellissimo, c'è tutto il magistero registico di un regista, di un cineasta ormai quasi settantenne, cioè Steven Spielberg. È incredibile che abbia avuto solo una nomination al Golden Globe, speriamo che si rifaccia agli Oscar, come miglior attore non protagonista, lo strepitoso Mark Rylance, mentre Hanks non l'ha avuta. Il fatto che non abbia avuto la nomination come regista e l'abbia avuta invece Tom McCarthy, regista di Spotlight, dovrebbe mandare molte persone a letto senza cena, cioè non può capire di cinema una persona che candida McCarthy e non Spielberg. Ecco, vediamo i film, appunto, il miglior film per il Golden Globe, miglior film, miglior regista, Todd Hines per Carol, Tom McCarthy per Spotlight che tu menzionavi, George Miller Mad Max Fury Road, Ridley Scott The Martian, Alejandro González Iñárritu The Revenant, di cui parleremo fra poco. Quindi, tranne McCarthy, per carità, che è un professionista rispettabile, ma non è un autore, gli altri sono registi di nome. Il mio preferito è proprio Iñárritu dei cinque che hai detto, però anche Haynes è un bravissimo regista. Invece i film sono, come sai, al Golden Globe divisi tra film drammatici e commedie. Io vedo che la sorpresa è Carol, il bel film di Todd Haynes su un amore omosessuale ambientato negli anni 50 con due attrici strepitose, ed è raccontato con grande sensibilità e delicatezza, e penso che sia il favorito tra i cinque. Ecco, veniamo invece a The Revenant di Iñárritu, che tu hai citato. La storia è una storia western, di nuovo è la storia di un esploratore, di una guida che sta aiutando un gruppo di altri esploratori, ma anche di soldati e di alcuni cowboy, a ritrovare un percorso per riportare un bottino di pelli che sono riusciti a prendere cacciando animali verso un forte, e lì ne succedono di tutti i colori. Il protagonista è Leonardo DiCaprio, anzi il protagonista, perché poi la storia è vera, è Hugh Glass. Viene attaccato a un certo punto da un orso, non è che vi rivelo nulla di nuovo perché questo succede proprio all'inizio del film, c'è una scena drammatica e lì e poi il film si sviluppa così, un classico western d'altri tempi. Parliamo di Iñárritu, di un messicano, una volta erano gli italiani che facevano dei film straordinari, qui continuano a vincere i messicani, come mai? Allora, sono due anni che, come hai detto tu, due eccellenti registi messicani, Cuarón e Iñárritu, hanno vinto l'Oscar. C'è una nuova generazione di registi messicani di eccellenza, c'è un terzo molto bravo che è Guillermo del Toro, ma altri meno noti che stanno venendo fuori. E la storia che dicevamo prima dell'America. L'America è fatta da emigranti, c'è poco da fare. Adesso c'è una realtà nuova che riguarda questo paese, ma se andiamo indietro nella storia abbiamo avuto il momento in cui c'era una grande immigrazione di registi ebraici, per esempio, magari scappate all'orrore delle leggi razziali. Ci sono stati alcuni registi francesi che hanno lavorato qui, come Louis Malle, il primo che mi viene in mente. Insomma, è la storia continua di questo paese. Ci sono stati registi boemi, pensa a Miloš Forman, registi ebreo-polacchi come Roman Polanski prima del clamoroso scandalo del 1974. Non c'è nulla di nuovo. Questi tre registi che sono amici, hanno spesso lavorato insieme, formano una squadra, ma hanno personalità molto diverse. Il cinema di Cuarón è molto diverso da quello di Iñárritu, che è molto diverso da quello di Del Toro. Ecco, siamo a metà, siamo tra Natale e Capodanno. e quindi si va al cinema. Perché questa tradizione di lanciare i film più belli, più importanti, più attesi proprio il giorno di Natale e di modo che poi prima dell'anno, a parte la questione degli Oscar ovviamente? Allora, ci sono due punti. Il primo l'hai citato appena adesso, e siamo nel pieno della award season, cioè nel momento in cui escono le nomination, tra breve usciranno anche quelle degli Oscar e ci sono i due mesi prima della premiazione. Ma in realtà cosa succede? È un momento di vacanze più brevi di quelle estive, dove la gente, soprattutto quelle meno facoltose, non va al mare, non va in posti caldi, cioè non ha tempo per fare altre cose, quindi si concentra negli spettacoli, spesso cittadini. Quindi il cinema ha un momento di grande ricchezza, e questo succede da sempre. I film che hanno ambizioni ma anche potenzialità commerciali escono tutti tra Thanksgiving e la sera di Capodanno. L'altro grande momento, come sai, è quello estivo, ma la differenza tra quelli natalizi e quello estivo è che generalmente, ci sono delle eccezioni, quelli estivi sono i cosiddetti popcorn movie, sono più leggeri, più spettacolari, più da intrattenimento. Ma è anche perché il cinema è sogno. Ognuno ha bisogno di confrontarsi all'interno di uno spazio buio con un'immagine, con un'illusione, con un sogno che viene proiettato sullo schermo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ecco, vorrei scegliere un tema, uno dei temi dei film di cui vi ho parlato. L'anno nuovo si avvicina e direi che per avvicinarci e per cominciare l'anno nuovo con un passo di carica, del resto lo dico sempre, Get Going, e credo che la più appropriata sia la classica colonna sonora di Star Wars. Che è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!